volevo dire che io personalmente ho cominciato a essere adolescente quando dai pensieri che tu pensi da piccolo, che vuoi solo giocare, pensi solo al gioco, a un tratto pensi ai problemi che potrai avere in futuro, pensi a farti un progetto per gli anni prossimi, tutto è progettato. Che sei dentro e contemporaneamente io vivo in un presente che per...